ondate imponenti di discorsi del cazzo. Si innalzano minacciose destinate ad infrangersi su di me. Ma oggi non voglio più starli a sentire. Infilo le cuffie ed affitto il cervello a Chris Jordan e Todd di Winnipeg.